Uscita Françoise, Albertine tornò a sedersi sul mio letto. «Sapete di che cosa ho paura?» le dissi. «Che se continuiamo così, non potrò fare a meno di baciarvi. Sarebbe una bella disgrazia!» Non raccolsi subito l'invito. Per un altro, forse, sarebbe stato addirittura superfluo, perché Albertine aveva una pronuncia così carnale e così dolce che dava, solo a parlarvi, l'impressione di baciarvi. Ogni sua parola era un favore concesso e la sua conversazione vi copriva di baci. Eppure, quant'era gradevole per me quell'invito. Lo sarebbe stato anche se me l'avesse rivolto un'altra graziosa fanciulla della stessa età. Ma che Albertine, adesso, fosse così disponibile con me, mi consentiva qualcosa più del piacere, un confronto fra diverse immagini intrise di bellezza. Ricordavo innanzitutto Albertine davanti alla spiaggia, quasi dipinta sullo sfondo del mare, dotata ai miei occhi di un'esistenza non più reale di certe visioni di teatro nelle quali non si capisce bene se ad apparirci sia l'attrice annunciata dal programma, una figurante che in quel momento la sostituisce o una semplice proiezione. Poi la donna vera si era staccata dal fascio luminoso, era venuta a me, ma solo perché potessi accorgermi che non aveva affatto, nel mondo reale, la disponibilità amorosa attribuitale nel quadro magico. Avevo appreso che non era possibile toccarla né baciarla, che con lei si poteva soltanto conversare, che per me non era una donna più di quanto fosse uva l'uva di giada posata, decorazione incommestibile sulle tavole di un tempo. Ed ecco che, su un terzo livello, mi appariva reale come nella seconda conoscenza che avevo avuta di lei, ma disponibile come nella prima. Disponibile e in una forma tanto più deliziosa in quanto avevo così lungamente escluso che lo fosse. L'incremento del mio sapere sulla vita meno unitaria, meno semplice di come l'avevo creduta, sfociava provvisoriamente nell'agnosticismo. Che cosa mai si può affermare, visto che quel che dapprima si era creduto probabile si è poi dimostrato falso e in una terza fase è risultato vero? E ahimè, non ero ancora alla fine delle mie scoperte con Albertine. In ogni caso, se anche non ci fosse stato quel fascino romanzesco connesso alla scoperta di una maggior ricchezza di piani, svelati uno dopo l'altro dalla vita, un fascino opposto a quello a cui suggiaceva Saint-Lieu durante i pranzi a Rivebell nel ritrovare, fra le maschere sovrapposte dall'esistenza su un volto tranquillo, le fattezze sulle quali un tempo si erano impresse le sue labbra, l'idea che baciare le guance di Albertine era una cosa possibile, implicava per me un piacere superiore ancora a quello di baciarle. Che differenza fra il possedere una donna sulla quale, poiché non è che un pezzo di carne, ad applicarsi è solo il nostro corpo, e il possedere la fanciulla che scorgevamo sulla spiaggia accanto alle sue amiche in determinati giorni, senza nemmeno sapere perché proprio in quei giorni e non in altri, e ogni volta, per questo, tremando di non rivederla. La vita è stata così compiacente da rivelarci via via tutto il romanzo di quella ragazzina. Ci ha fornito per osservarla prima uno strumento ottico, poi un altro, aggiunto al desiderio carnale il complemento, che lo centuplica e lo diversifica, dei desideri più spirituali e meno saziabili, quelli che non escono dal loro torpore e lo lasciano andare per conto suo, quel desiderio, quando mira semplicemente a impadronirsi di un pezzo di carne, ma che, quando in gioco il possesso di tutta una regione di ricordi da cui essi si sentivano nostalgicamente esiliati, gli scatenano accanto una tempesta, lo esasperano e non potendo seguirlo sino al compimento, sino all'assimilazione, impossibile nella forma sperata di una realtà immateriale, lo aspettano a metà strada per fargli, al momento del ritorno, nuovamente da scorta. Baciare anziché le guance della prima venuta, freschissime magari, ma anonime, senza prestigio, senza mistero, quelle che così a lungo erano state oggetto dei miei sogni, sarebbe stato come conoscere il gusto, il sapore di un colore che innumerevoli volte avevo contemplato. Abbiamo visto una donna, semplice immagine nello scenario della vita, profilarsi come Albertine sullo sfondo del mare. Ed ecco che possiamo, quell'immagine, staccarla, posarla accanto a noi ed esaminare a poco il suo volume, i suoi colori, come se l'avessimo messa dietro le lenti di uno stereoscopio. È per questo che solo le donne un po' difficili, quelle che non riusciamo subito a possedere, che non sappiamo nemmeno in principio se potremo mai possedere, sono davvero interessanti, perché conoscerle, avvicinarle, conquistarle è far variare di forma, di grandezza, di rilievo l'immagine umana. È una lezione di relativismo nell'apprezzamento di un corpo, di una vita di donna, che è bello poi rivedere quando ridiventa una silhouette senza spessore nello scenario della vita. Le donne che incontriamo per la prima volta da una mezzana non sono interessanti, perché rimangono invariabili. D'altra parte, Albertine teneva, strette attorno a sé, le impressioni di tutta una sequenza marittima che mi era particolarmente cara. Sentivo che sulle sue gote avrei baciato l'intera spiaggia di Balbec. «Se davvero mi concedete di baciarvi, preferirei rimandare la cosa più tardi e scegliere bene il momento». Ma non dovreste dimenticare allora di avermene dato il permesso. Mi occorre un buono per un bacio. Ve lo devo firmare? Ma se ne usufruissi subito, potrei averne lo stesso un altro per dopo? Siete divertente con i vostri buoni. Ve ne rifarò di tanto in tanto. Vi prego, ancora una cosa. A Balbec, quando ancora non vi conoscevo, avevate spesso uno sguardo duro, scaltro. Non potreste dirmi a cosa pensavate in quei momenti? Ah, ma non me ne ricordo proprio. Ecco, per aiutarvi, un giorno la vostra amica Giselle ha saltato a piedi giunti la sedia dove stava seduto un vecchio signore. Cercate di ricordare cosa avete pensato in quel momento. Giselle era quella che frequentavamo di meno, faceva parte della banda, se volete, ma non del tutto. Avrò pensato che era maleducata e ordinaria. Ah, tutto qui. Avrei tanto voluto, prima di baciarla, poterla riempire di nuovo del mistero che serbava per me sulla spiaggia prima che la conoscessi. Ritrovare in lei il paese dove era vissuta in precedenza. Perlomeno, se non lo conoscevo, potevo insinuare al suo posto tutti i ricordi della nostra vita a Balbec, il frangersi dell'onda sotto la mia finestra, le grida dei bambini. Ma, lasciando che il mio sguardo scivolasse sul delizioso globo rosato delle sue guance, le cui superfici, dolcemente convesse, declinavano verso il primo corrugarsi dei suoi bei capelli neri che correvano in catene movimentate, sollevavano i loro contrafforti scoscesi e modellavano le ondulazioni delle loro ballate, dovetti dire a me stesso: finalmente, dopo lo scacco di Balbec, conoscerò il sapore di questa rosa ignota, le guance di Albertine. E poiché i cerchi che riusciamo a far attraversare alle cose e agli esseri nel corso della nostra esistenza non sono poi così numerosi, potrò forse considerare la mia in qualche modo compiuta quando, prelevato dalla sua antica cornice il volto fiorito che avevo scelto fra tutti, l'avrò portato su questo nuovo piano dove ne prenderò infine conoscenza attraverso le labbra. Mi dicevo queste cose perché ero convinto che esistesse una conoscenza attraverso le labbra, Mi dicevo che stavo per conoscere il sapore di quella rosa di carne perché non avevo pensato che l'uomo, creatura evidentemente meno rudimentale del riccio di mare e della stessa balena, è tuttavia ancora sprovvisto di un certo numero di organi essenziali e, in particolare, non ne possiede alcuno che serva a baciare. All'assenza di tale organo supplisce con le labbra e raggiunge così, forse, un risultato un po' più soddisfacente che se fosse costretto ad accarezzare l'amata con una zanna di corno. Ma le labbra, fatte per recare al palato il sapore di ciò che le tenta, devono accontentarsi, senza rilevare il proprio errore né ammettere la propria delusione, di vagare alla superficie e di urtare contro l'impenetrabilità della guancia ermetica e desiderata. D'altronde, in quell'istante, al contatto stesso della carne e quand'anche per ipotesi diventassero più esperte e dotate, le labbra non sarebbero certo in grado di gustare meglio il sapore da cui la natura le tiene attualmente lontane, giacché in quella zona desolata dove non possono trovare di che nutrirsi, esse sono sole. Prima lo sguardo, poi l'olfatto le hanno da tempo abbandonate. Inizialmente, man mano che la mia bocca veniva accostandosi alle guance che i miei sguardi le avevano proposto di baciare, questi ultimi, spostandosi, scorsero delle guance nuove. Il collo, visto da più vicino e come al microscopio, palesò nella sua grana grossa una robustezza che modificò il carattere del viso. Le ultime applicazioni della fotografia, che stendono ai piedi di una cattedrale tutte le case apparseci così spesso da vicino, alte quasi quanto le torri campanarie, fanno via via manovrare come un reggimento, in fila, in ordine sparso, a ranghi serrati, gli stessi monumenti, addossano l'una all'altra le due colonne, un attimo fa così distanti della piazzetta, allontanano la non lontana salute e riescono, su uno sfondo pallido e degradato, a costringere un orizzonte immenso sotto l'arco di un ponte, nella strombatura di una finestra, tra le foglie di un albero situato in primo piano e più rilevato nel tono, danno come successive cornici a una medesima chiesa le arcate di tutte le altre. Non vedo nient'altro che possa, al pari del bacio, far nascere da quella che credevamo una cosa d'aspetto ben definito, le 100 altre cose che essa non diversamente è, dal momento che ciascuna si riferisce a una prospettiva non meno legittima. Insomma, così come a Balbec, Albertin mi era parsa tante volte diversa, adesso, come se, accelerando prodigiosamente la rapidità dei mutamenti di prospettiva e dei mutamenti di colorazioni offertici da una stessa persona in una serie successiva di incontri, avessi voluto condensarli tutti in pochi secondi per riprodurre sperimentalmente il fenomeno che diversifica l'individualità di un essere, traendo l'una dall'altra, come da un astuccio, tutte le possibilità che esso racchiude, durante il breve tragitto delle mie labbra verso la guancia, furono 10 le Albertin che io vidi. Quell'unica fanciulla era come una dea dalle molteplici teste, e quella che avevo appena scorta cedeva il posto a un'altra se solo tentavo d'avvicinarla. Finché non l'avevo toccata, potevo almeno vederla, quella testa. Me ne giungeva un lieve profumo. Ma poiché, in funzione del bacio, le narici e gli occhi sono altrettanto mal situati delle labbra e altrettanto mal fatti, tutt'a un tratto, ahimè, i miei occhi smisero di vedere. Il mio naso, schiacciandosi, cessò a sua volta di percepire qualunque odore e da quei segni detestabili appresi, senza per questo conoscere meglio il sapore del desiderato color di rosa, che stavo infine baciando la guancia di Albertine.